che scrive delle lettere virtuali alla figlia Lulu. Le chiamiamo lettere virtuali perché in realtà scrive queste lettere e poi le mette in una bottiglia e le affida alla corrente del fiume, quindi non si sa se queste lettere verranno appunto lette o meno. La figlia Lulu, diciamo, se n'è andata da tempo da casa, diciamo, e non dà più notizie di sé. Questo romanzo alterna quindi la forma epistolare, leggiamo queste lettere che Josué scrive alla figlia, al racconto tradizionale. Perché è stato scelto questo escamotage narrativo, ce lo spiega Carmen Pellegrino. Josué Pindari, che poi è il padre di Lulu, a un certo punto, nella disperazione di non sapere dov'è finita sua figlia, decide di affidare le lettere, quindi le sue parole, alle acque del fiume. È un po' un escamotage trovato, perché nel fiume il padre diceva alla figlia che si sarebbero sempre ritrovati, e soprattutto perché quelle sono acque che in qualche modo vanno a raggiungere. Lui non sa dov'è sua figlia, dove si sia potuta, insomma, ricostruire una vita, se lo ha fatto, però ha da dire delle cose a questa ragazza che d'un tratto se n'è andata senza lasciare tracce di sé, senza mai mandare notizie a casa. E lui ha delle cose da dire, una sorta di riconciliazione da tentare con questa figlia amatissima, alla quale però non ha riservato altro che imposizioni e silenzi. Quindi attraverso la forma di una scrittura che è più che altro una scrittura con se stesso, a se stesso, perché non potrebbero mai arrivare queste lettere, chi lo sa se arriveranno mai a destinazione, si confessa, e quindi attraverso la scrittura si rende conto e ne fa partecipe, insomma, la figlia, in un ideale giorno di lettura di queste lettere, chiedendole non scusa, perché non è uno scusarsi, ma comprensione, la comprensione di gesti che sono e di anche privazioni che sono state alle origini del loro mancato incontro. Il rapporto padre e figlia, o madre e figlia, insomma, è un rapporto molto caro alla narrativa e alla letteratura in genere. Tu da che punto di vista l'hai voluto inquadrare? Cos'è che ti attraeva di più proprio come narratrice? Volevo raccontare il punto di vista di un padre, però da figlia, evidentemente, quale sono. E il mio obiettivo era più che altro, non riuscito fra l'altro, quindi lo dichiaro, volevo scrivere un libro sulla figlia, sul figlio, perché in questo paese, insomma, dove c'è una festa per tutto, la festa della madre, del padre, anche del gatto, del nonno, festeggiamo tutto, il figlio non viene mai festeggiato, quindi volevo scrivere un libro sul figlio. In realtà mi rendo conto anche dai messaggi che ricevo, è Josué, proprio il padre, quello più amato, il personaggio più amato, quindi ho sbagliato qualcosa, quindi ho fallito l'obiettivo, oppure forse volevo proprio raccontare un padre attraverso gli occhi di una figlia, quale sono io, che ha cercato poi a un certo punto una riconciliazione con un padre altrettanto severo come Josué. Josué è un uomo che tu, diciamo, fotografi almeno nel romanzo in un periodo di grandissima solitudine, poi Lulu va via di casa e subisce anche un fallimento, diciamo, politico, nel senso che lui ha creduto nel socialismo per tanto tempo, si è anche impegnato politicamente, e poi arriva Tangentopoli e quindi le delusioni proprio emotive di quest'uomo. Insomma, è un uomo intorno al quale sembra crollare tutto. Sì, e di fatto gli crolla tutto, qualsiasi idea in cui ha creduto, la famiglia stessa, che è stato un ancoraggio solidissimo per lui, si sgretola, il partito in cui aveva creduto proprio con fermezza, che era poi il Partito Socialista, cade sotto i colpi di Tangentopoli, che si abbatte come una scure anche su quelli come lui che avevano vissuto il socialismo in maniera quasi ottocentesca, missionaria, nobile, quindi il riscatto della povera gente. Quindi si vede crollare ogni ancoraggio, insomma, ogni punto di riferimento, eppure è un ostinato della vita, l'ho definito così, nel senso che non si arrende. Ho voluto per questo personaggio risemantizzare una parola, che è la parola di speranza, usata per la prima volta da Vincenzo Monti, però con un'accezione vicina alla disperazione, quindi di speranza nel senso del disperare. Con Josué Pindari questa parola ha un altro significato, ha il significato di cercare la speranza nelle cose disperanti, ed è quello che lui fa, anche nel voler, insomma, mandare dei messaggi alla figlia, dei messaggi di riconciliazione, c'è questo, c'è questa speranza effimera, piccolissima, al fondo di tutto, che però forse la figlia possa un giorno, no, comprendere questo padre che aveva questa trionfante generosità di chi ha tutte le certezze e le impone poi, come lui ha fatto, alla figlia. Hai detto che inizialmente la tua idea era quella di concentrare la narrazione su Lulu, quindi scrivere il romanzo su una figlia. Per raccontare cosa? Che cosa emerge di Lulu? Lulu porta con sé la ferita del non amato, quella che potremmo definire così, e tenta di riscattarla a un certo punto, questa ferita, andandosene via. O almeno così crede, così ha creduto sempre, di essere vissuta in un mancato amore. Non ne ha sentito dalla madre, la quale è stata sempre incapace di mostrarglielo. Non ha capito che quelle manifestazioni eccessive del padre di imposizioni, di condurle e definirle la vita, erano dal suo punto di vista una forma d'amore. Non le è bastato più questo e decide di andare via. Volevo raccontare il riscatto di chi si è sentito abbandonato, di chi è stato, anche se non di fatto, non concretamente, però insomma è un abbandono altrettanto feroce quello di chi cresce pensando di dover scontare una colpa, quella dell'essere nati e quella di non essere amati. E questa era Carmen Pellegrino, ora in libreria con Se mi tornassi questa sera accanto, pubblicato da Giunti. Prima di chiudere vi segnalo un appuntamento per il prossimo fine settimana. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio c'è l'ottava edizione di Pistoia, Dialoghi sull'uomo, un festival di antropologia del contemporaneo. La novità di quest'anno, di questa edizione, è che è stato istituito un premio internazionale Dialoghi sull'uomo, che quest'anno sarà assegnato allo scrittore israeliano David Grossman, che ovviamente sarà ospite di questo festival. Tutte le informazioni e il programma su dialoghisulluomo.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter e sulla pagina Facebook Il Cacciatore di Libri - Radio24. Buona lettura da Alessandra Tedesco.